Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Settima puntata. I primi giorni dopo il suo rientro, Arturo rimase chiuso in casa, senza quasi mettere il naso fuori, e per tutti, tranne che per me, era come se non fosse tornato dal Cile. Ma io andai a casa sua e parlai con lui e seppi che era stato in carcere 8 giorni e che, pur non essendo stato torturato, si era comportato con coraggio. E lo dissi ai suoi amici. Dissi: Arturito è tornato, e abbellì il suo ritorno prendendo a prestito i colori dalla tavolozza della poesia epica. E quando Arturito una sera finalmente spuntò al caffè Quito in Avenida Bucarelli, i suoi vecchi amici, i poeti giovani, lo fissarono con uno sguardo che non era più lo stesso. E perché non era più lo stesso? Ma perché per loro Arturito era ormai entrato nella categoria di chi ha visto la morte in faccia, nella sottocategoria dei veri duri, e questo, nella gerarchia dei piccoli e disperati macio dell'America Latina, era un diploma, un giardino di medaglie di tutto rispetto. In fondo, però, bisogna ammettere che nessuno prendeva la faccenda alla lettera. Cioè, la leggenda era partita dalle mie labbra, nascoste dal dorso della mano, e anche se in sostanza tutto quello che avevo detto di lui mentre se ne stava chiuso in casa era vero, venendo da chi veniva, ossia da me, non godeva di un'eccessiva credibilità. E così vanno le cose in questo continente. Io ero la loro madre e mi credevano, ma non è che mi credessero poi troppo. Ernesto San Epifanio però prese le mie parole alla lettera. Nei giorni che precedettero la ricomparsa in pubblico di Arturo, mi fece ripetere le sue avventure all'altro capo del mondo, e ogni volta il suo entusiasmo cresceva. Cioè, io parlavo e inventavo avventure, e pian piano la prostrazione di Ernesto San Epifanio sfumava, la sua malinconia scompariva, o almeno prostrazione e malinconia erano come scosse, spolverate, arieggiate. Così, quando Arturo ricomparve, tutti vollero stare con lui, compreso Ernesto San Epifanio, che, pur tenendosi in un discreto secondo piano, partecipò con gli altri al benvenuto che gli diedero i vecchi amici, e che consisté, se ben ricordo, nell'offrirgli una birra e dei chaquiles al caffè Quito, banchetto senza dubbio modesto, ma in linea con le possibilità generali. E quando tutti se ne furono andati, Ernesto San Epifanio rimase lì, appoggiato al bancone dell'encrujada veracruzana, perché a quel punto non eravamo più al Quito ma ci eravamo trasferiti nel suddetto bar, mentre Arturo, seduto a un tavolo solo con i suoi fantasmi, fissava l'ultima tequila come se in fondo al bicchiere si stesse verificando un naufragio di proporzioni omeriche, cosa insolita comunque la si guardi in un ragazzo che ancora non aveva compiuto 21 anni. Fu allora che cominciò l'avventura. Io c'ero, posso testimoniare. Io ero seduta a un altro tavolo e parlavo con un giornalista alle prime armi delle pagine culturali di un giornale di Città del Messico. E avevo appena comprato un disegno a Lilian Serpas, e Lilian Serpas, dopo averci venduto il disegno, ci aveva sorriso con il suo sorriso più enigmatico, ma la parola enigmatico non può esprimere l'oscurità abissale che era il suo sorriso, ed era scomparsa nella notte di Città del Messico. E io dicevo al giornalista, chi era Lilian Serpas, gli dicevo che il disegno non era suo ma del figlio, gli raccontavo il poco che sapevo di quella donna che appariva e scompariva nei bar e nei caffè di Avenida Bucarelli. E in quel momento, mentre io parlavo e Arturo al tavolo vicino contemplava i presunti vortici della sua tequila, Ernesto San Epifanio si allontanò dal bancone e andò a sedersi con lui. E per un istante io vidi solo le loro teste, i loro capelli lunghi fino alle spalle, coi riccioli, quelli di Arturo, e lisci e molto più scuri, quelli di Ernesto. E per un po' i due rimasero lì a parlare mentre l'encrusciata veracruzana si svuotava pian piano degli ultimi nottamboli, quelli che all'improvviso avevano fretta di andarsene e sulla porta gridavano «Viva Mexico!» e quelli che erano così sbronzi da non riuscire nemmeno ad alzarsi dalla sedia. E allora io mi alzai e mi avvicinai, restando in piedi accanto a loro, immobile, come la statua di cristallo che avrei voluto essere da bambina. E sentii che Ernesto San Epifanio raccontava una storia terribile sul re dei finocchi del quartiere Guerrero, un tipo che chiamavano il re e che controllava la prostituzione maschile di quel tipico e, perché no, amato quartiere della capitale. E il re, secondo Ernesto San Epifanio, aveva comprato il suo corpo e ora lui gli apparteneva corpo e anima, che è quello che succede quando uno distrattamente si lascia comprare. E se non acconsentiva alle sue richieste, la giustizia e il rancore del re si sarebbero abbattuti su di lui e sulla sua famiglia. E Arturito ascoltava quello che diceva Ernesto e a tratti alzava la testa dal suo maelstrom di tequila e cercava gli occhi dell'amico, quasi si stesse chiedendo come avesse potuto Ernesto essere così coglione da ficcarsi a testa bassa in una storia del genere. Ed Ernesto San Epifanio quasi leggesse nei pensieri del suo amico, disse che in un determinato momento della vita tutti i gay del Messico combinano qualche irreparabile stronzata. E poi disse che non aveva nessuno che lo aiutasse e che se le cose andavano avanti così sarebbe per forza diventato lo schiavo del re dei finocchi del quartiere Guerrero. E allora Arturito, il ragazzino che avevo conosciuto quando aveva 17 anni, disse: «Vuoi che ti aiuti a uscire da questo casino?» Ed Ernesto San Epifanio disse: «Questo casino non ha via d'uscita, ma un po' di aiuto mi farebbe comodo. E Arturo, cosa vuoi che faccia? Che ammazzi il re dei finocchi?» Ed Ernesto San Epifanio: «Non voglio che ammazzi nessuno, voglio solo che tu mi accompagni e tu gli dica di lasciarmi in pace una volta per tutte». E Arturo: «E perché cazzo non glielo dici tu?» Ed Ernesto: «Se vado a dirglielo da solo, gli scagnozzi del re dei finocchi mi conceranno per le feste e poi getteranno il mio cadavere ai cani». E Arturo: «Che teste di cazzo!» Ed Ernesto San Epifanio: «Tu però hai i cazzi e i controcazzi». E Arturo: «Non dire cazzate». Ed Ernesto: «Io la mia cazzata l'ho già fatta, le mie poesie resteranno nel libro dei santi della poesia messicana, se non mi vuoi accompagnare, non mi accompagnare». «In fondo hai ragione, di quale ragione stiamo parlando?» disse Arturo e si stiracchiò come se fino ad allora avesse dormito. Poi si misero a parlare del potere che esercitava il re dei finocchi nel quartiere Guerrero e Arturo domandò su cosa si reggeva quel potere. «Sulla paura», disse Ernesto San Epifanio. «Il re imponeva il suo potere con la paura». «E io cosa devo fare?» disse Arturito. «Tu non hai paura», disse Ernesto. «Tu vieni dal Cile. Tutto quello che il re mi può fare, tu l'hai già visto moltiplicato per 100 o 100.000. Quando Ernesto disse così, io non vidi la faccia di Arturo, ma intuì che l'espressione che aveva avuto fino ad allora, un po' distratta, si alterava in maniera sottile per via di una rughetta quasi impercettibile, nella quale però si concentrava tutta la paura del mondo. E allora Arturito scoppiò a ridere, e poi anche Ernesto scoppiò a ridere. Le loro risate cristalline sembravano uccelli polimorfi nello spazio come pieno di cenere che era quell'ora l'encrusciata veracruzana. E poi Arturo si alzò e disse: «Andiamo nel quartiere Guerrero». Ed Ernesto si alzò e uscì con lui, e dopo 30 secondi uscì anch'io a razzo dal bar agonizzante e li seguì a prudente distanza, perché sapevo che se mi vedevano non mi avrebbero lasciato andare con loro, perché io ero una donna e una donna non si caccia in queste rogne, perché io avevo già una certa età e una persona di una certa età non ha lo slancio di un ragazzo di 20 anni, e perché a quell'ora incerta dell'alba Arturito Belano accettava la sua sorte di bambino delle fogne e usciva a cercare i suoi fantasmi. ma io non volevo lasciarlo solo, né lui né Ernesto San Epifanio. Così gli andai dietro, a prudente distanza, e mentre camminavo cominciai a cercare nella borsa o nel vecchio zainetto di Wakaka il mio coltello fortunato, e stavolta lo trovai senza nessuna difficoltà e lo misi in una tasca della gonna plissettata. Una gonna plissettata grigia, con due tasche ai lati, che mi mettevo raramente e che era un regalo di Elena. E in quel momento non pensai alle conseguenze che un gesto del genere poteva avere per me e per gli altri che senza dubbio sarebbero rimasti coinvolti. Pensai a Ernesto, che quella sera indossava una giacca lilla e una camicia verde scuro con il colletto e i polsini rigidi. E pensai alle conseguenze del desiderio. E pensai anche ad Arturo, che di punto in bianco era stato involontariamente promosso al rango di veterano delle guerre fiorite e che, chissà per quali oscuri motivi, accettava la responsabilità che quell'equivoco portava con sé. E li seguì. Li vidi camminare con passo leggero su Bucareli fino a Reforma, e poi li vidi attraversare Reforma senza aspettare il verde, tutti e due con i capelli lunghi e scarmigliati, perché a quell'ora su Reforma soffia il vento notturno che è rimasto alla sera e il paseo si trasforma in un tubo trasparente, in un polmone cuneiforme da cui passano i respiri immaginari della città. E poi cominciammo a camminare per Avenida Guerrero, loro un po' più piano di prima e io un po' più depressa. La Guerrero a quell'ora sembra più che altro un cimitero, ma non un cimitero del 1974, né un cimitero del 1968, né un cimitero del 1975, ma un cimitero del 2666. Un cimitero dimenticato sotto una palpebra morta o mai nata. Le acquosità spassionate di un occhio che per dimenticare qualcosa ha finito per dimenticare tutto. E ormai a quel punto avevamo attraversato Avenida Puente de Alvarado e avevamo intravisto le ultime formiche umane che si affannavano protette dall'oscurità in Plaza San Fernando. E allora cominciai a sentirmi decisamente nervosa, perché stavamo davvero entrando nel regno del re dei finocchi, che l'elegante Ernesto, figlio peraltro dell'abnegata classe lavoratrice di Città del Messico, temeva tanto. E così mi trovavo là, amici miei, la madre della poesia messicana con il suo coltello in tasca, dietro a due poeti che non avevano ancora compiuto 21 anni, lungo quel fiume turbolento che era ed è Avenida Guerrero, simile non al Rio delle Amazzoni, perché esagerare, ma al Grijalva, il fiume cantato ai suoi tempi da Efraín Huerta, sempre che la memoria non mi inganni. Anche se quel Grijalva notturno che era ed è Avenida Guerrero aveva perso da tempo immemore la sua primigenia condizione di innocenza. Cioè, quel Grijalva che scorreva nella notte era, sotto tutti gli aspetti, un fiume dannato nella cui corrente scivolavano cadaveri o annunci di cadaveri, automobili nere che apparivano, scomparivano e ricomparivano, le stesse o la loro silenziosa eco impazzita, come se il fiume dell'inferno fosse circolare, cosa che, ora che ci penso, probabilmente è vera. Quel che è certo è che io li seguii e loro avanzarono su Avenida Guerrero e poi girarono in Calle Magnolia e dai gesti che facevano si sarebbe detto che conversassero animatamente, anche se non era l'ora né il posto più adatto all'esercizio del dialogo. Dai locali di Calle Magnolia, peraltro non molto numerosi, sveniva una musica tropicale che invitava al raccoglimento e non alla festa o al ballo. Di tanto in tanto ribombava un grido. La strada, ricordo che pensai, sembrava una spina ho una freccia conficcata nel fianco di Avenida Guerrero, immagine che non sarebbe dispiaciuta a Ernesto San Epifanio. Dopodiché i due si fermarono davanti all'insegna luminosa dell'Hotel Trifoglio. Cosa buffa anche questa, perché era, o così mi sembrò, ero molto nervosa, come se in Calle Berlin ci fosse l'albergo Paris. E poi parvero discutere la strategia che avrebbero seguito da quel momento in poi. Ernesto, all'ultimo, mi diede l'impressione di voler fare dietro fronte per allontanarsi più in fretta possibile. Arturito, al contrario, sembrava pronto a proseguire, completamente immedesimato nel ruolo di duro che io avevo contribuito ad assegnargli e che lui, quella notte priva di tutto, persino d'aria, accettava come un'ostia di carne amara, quell'ostia che non si ha il diritto di ingoiare. E fu così che i due eroi entrarono all'Hotel Trifoglio. Prima Arturo Belano e poi Ernesto San Epifanio, poeti forgiati a Città del Messico. E dopo entrai io, la spazzatrice di Leon Felipe, la spaccavasi di Pedro Garfias, l'unica persona rimasta dentro all'università nel settembre del 68, quando i reparti antisommossa avevano violato l'autonomia. E al primo sguardo l'interno dell'albergo fu deludente. In casi del genere è come se una si buttasse con gli occhi chiusi in un lago di fuoco e poi aprisse gli occhi. Io mi ero buttata, poi avevo aperto gli occhi e quello che vedevo non aveva niente di tremendo. Una reception minuscola, con due divani a cui il passare del tempo aveva procurato danni indescrivibili, un portiere di carnagione scura, traccagnotto e con una gran massa di capelli corvini, un tubo al neon appeso al soffitto, un pavimento di piastrelle verdi, una scala coperta da una passatoia di plastica grigio sporco, una reception di infima categoria, anche se forse una parte del quartiere Guerrero considerava il Trifoglio un ragionevole lusso. Dopo aver confabulato con il portiere, i due eroi salirono le scale ed entrai anch'io e dissi al portiere che ero con loro. Il tipo tracagnotto sbatté le palpebre e tentò di dire qualcosa, di mostrare i denti, ma io ormai ero già al piano di sopra, dove in una nuvola di disinfettante e luce fioca si mise a nudo un corridoio che era nudo fin dai primi giorni della creazione. Là aprii una porta che si era appena chiusa ed entrai, testimone invisibile, nella camera reale del re dei finocchi del quartiere Guerrero. Ovviamente, amici miei, il re non era solo. Nella stanza c'era un tavolo e sul tavolo c'era un tappeto verde. Ma le persone presenti non giocavano a carte, facevano i conti di fine giornata o della settimana. In altre parole, sul tavolo c'erano dei fogli con scritti nomi e cifre e c'erano dei soldi. Nessuno fu sorpreso di vedermi. Il re era robusto, doveva essere sui 30 anni. Aveva i capelli castani, di quella tonalità di castano che in Messico non saprò mai se sul serio o per scherzo chiamano biondo. E indossava una camicia bianca un po' sudata che consentiva allo spettatore casuale di apprezzare, come senza volere, due avambracci possenti e vellosi. Accanto a lui era seduto un tipo grassottello, con baffi e basette smisurate, probabilmente il tesoriere del regno. In fondo alla stanza, nella penombra che avvolgeva il letto, un terzo uomo ci teneva d'occhio e ci ascoltava muovendo la testa. La prima cosa che pensai fu che quell'uomo non stava bene. All'inizio fu l'unico a farmi paura, ma via via che passavano i minuti, il timore si trasformò in commiserazione. Pensai che l'uomo semi sdraiato sul letto, in una posizione che peraltro doveva richiedere un grande sforzo, non poteva che essere un malato. Forse un subnormale, forse un nipote del re, subnormale o imbottito di sedativi. E questo mi fece pensare che, per brutta che sia la situazione in cui ti trovi, in questo caso la situazione in cui si trovava Ernesto San Epifanio, c'è sempre un altro che se la passa peggio.